Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, riprendiamo il nostro girovagare per monti e per mari con gli sci ai piedi e anche senza, per il gusto di camminare e conoscere il sommario. Questa settimana andiamo in Svizzera, dopo le feste, le luci e i mercatini, andiamo alla scoperta di un paese al centro dell'Europa. Poi riprendiamo a camminare sui sentieri di casa nostra nel Biellese, partendo dal Santuario di Europa. E poi parleremo di architettura legata all'ambiente. Un piccolo paese incastonato nel centro dell'Europa, influenzato dai confinanti ma molto fiero delle proprie tradizioni. La Svizzera fa rima con perfezione e potrebbe indurre a pensarla una meta un po' noiosa. Francesca Rovati, dell'ente del turismo svizzero, vi farà ricredere. Suggerirei sempre tre aspetti della Svizzera. La prima è il fatto che è una destinazione senza stress, nel senso che funziona tutto perfettamente, è tutto a misura d'uomo, per cui è molto facile pianificare un viaggio e soprattutto sfruttando quello che in Svizzera è un po' una peculiarità, cioè il mezzo di trasporto pubblico, che non è inteso solo come i tram, i treni, ma i bellissimi treni panoramici. In qualsiasi stagione si possono pianificare per esempio delle gite sul trenino rosso del Bernina, che è quello che collega Tirano a San Moritz, oppure sul trenino del ghiacciaio che collega Zermatt a San Moritz, e sono veramente dei modi per staccare completamente, per immergersi in un paesaggio bellissimo sia d'estate che d'inverno che d'autunno. Poi l'altro aspetto interessante appunto è il fatto che uno può pernottare a Berna, per esempio, e nel giro di un'ora essere in cima a una delle cime del cantone di Berna, oppure essere a Lucerna, che è appunto una cittadina molto raccolta, e da lì esplorare tramite la navigazione in battello sul lago di Lucerna o tramite cremagliere storiche anche tutte le vette circostanti. Ecco, questa è proprio una caratteristica unica della Svizzera, di poter abbinare città e montagna. Poi per una clientela più sportiva, diciamo che c'è veramente un'ampia scelta di sport sia invernali che estivi. Abbiamo da poco lanciato anche dei trekking a lunga percorrenza di più giorni per far conoscere la Svizzera, ovviamente in estate, da nord a sud, da est a ovest, che si possono dividere a tappe come i cammini, per esempio il Cammino di Santiago, per darvi un'idea. Facciamo un giro ipotetico. Tu da dove partiresti? Allora, io farei un giro abbinando montagna e città, per cui prenderei il treno da Milano e andrei diretta a Lucerna. Dormirei una notte a Lucerna e il giorno dopo, per esempio, andrei sul Monte Pilatus, che è una delle vette panoramiche del lago di Lucerna, dove si può anche pernottare. Allora, da maggio a ottobre è particolare perché si può prendere la cremagliera più ripida del mondo, che conduce appunto oltre i 2000 metri. Invece nel periodo invernale la cremagliera chiude causa neve, però si può arrivare in cima con funivia e cavinovia. Il giorno dopo magari mi sposterei da Lucerna a Interlaken, che si trova nel cantone di Berna, è abbastanza noto perché è un po' il lab per esplorare le cime del cantone di Berna, e da qua salirei per esempio sulla Jungfraujoch, che è la stazione ferroviaria più alta d'Europa perché si trova a oltre 3000 metri, si sale con un trenino e da qua si ha una vista su Eiger, Monch e Jungfrau, che per gli appassionati degli alpinismo è una, insomma, sono delle cime molto famose per la storia dell'alpinismo. Poi tornerei in, diciamo, in pianura, e mi sposterei sul lago di Ginevra, dove tra Losanna, Ginevra, Montreux sono delle cittadine sul lago molto molto belle da esplorare a piedi, e soprattutto lì la particolarità è anche una gastronomia molto apprezzata. Lì è zona di vini, lì vicino ci sono i vigneti del Lavaux Patrimonio UNESCO e si possono esplorare anche le cantine, fare degustazioni. Ecco. Poi da Losanna o da Ginevra c'è un comodo treno Eurocity che riporta a Milano. Secondo te ci sono ancora delle anche piccolissime destinazioni che non sono all'interno di questi giri più conosciuti e che invece vale la pena di andare a scoprire, anche perché comunque le distanze lo consentono. La Svizzera non è un paese enorme per cui da un posto all'altro ci vogliono ore e ore. Quindi magari ci sono dei piccoli borghi che secondo te possono ancora davvero riservare delle sorprese. In Svizzera abbiamo queste località completamente chiuse al traffico automobilistico. La più famosa è Zermatt, però io consiglierei invece Bettmeralp, Riederalp e Fischeralp, che sono tre villaggi sull'Alpe raggiungibili solo con camminovia. Per cui si arriva a valle, si prende la camminovia e si va in questi villaggi che praticamente si girano solo a piedi o d'inverno, quando è tutto innevato, si può uscire di casa, dall'appartamento di vacanze, dall'albergo direttamente con gli sci e andare agli impianti. È molto particolare come esperienza, perché appunto silenzio, quiete, nessun traffico e si gira a piedi tra le casette di questi piccoli borghi. Il comprensorio si chiama Alec Arena perché è affacciato sul ghiacciaio dell'Alec, che è il più lungo d'Europa, sono 23 km, per cui d'inverno si scia, si fanno escursioni con le ciaspolate, si slitta. E invece d'estate ci sono varie passeggiate, però appunto sembra di andare in un altro mondo e invece da Milano sono meno di 3 ore con i mezzi pubblici perché è tutto molto collegato, si va da Milano a Briga, poi si prende un altro trenino e poi la camminovia. Questa è un'esperienza secondo me molto particolare. Un'altra destinazione poco conosciuta al mercato italiano è il Canton Argovia, che magari è veramente poco conosciuto, però la particolarità è che qui c'è il castello degli Asburgo, perché gli Asburgo, contrariamente a quello che uno pensa, sono una dinastia svizzera che poi da qua è partita la conquista dell'Europa. E l'Argovia è particolare perché è terra di vigneti, terra di castelli, perché ce ne sono 4-5 molto belli da visitare, e anche terra di scoperte archeologiche molto interessanti. Scusate, non archeologiche, ma hanno trovato tracce di dinosauri. L'ultima domanda che volevo farti, volevo tornare sulla gastronomia. C'è qualcosa che secondo te proprio non è possibile saltare? Allora, la gastronomia svizzera è molto influenzata dai paesi vicini, però è anche una gastronomia di montagna, quindi una gastronomia di una popolazione abituata a fare i conti con la neve, insomma, il Col freddo, freddo. certo. Quindi diciamo, Calorica, calorica, diciamo. immancabili sono la raclette, che è questo formaggio tipico del Vallese che si scioglie sul fuoco e si gusta, diciamo, con sottaceti e patate. La fondue, che è anche, diciamo, tipica della Val d'Aosta, però in Svizzera è fatta con formaggi nostri, locali. E poi quello che loro chiamano i rösti, che sono queste patate saltate col burro che vengono condite in vario modo. Le trovi a Zurigo, le trovi nel Vallese, le trovi un po' in tutta la parte dove si parla tedesco e sono molto gustose e molto tipiche. Attraversiamo il confine per fermarci nel Biellese. A novembre, Terre di Mezzo ha pubblicato una guida dedicata al Cammino di Europa, un triplice itinerario nella natura della Serra Morenica, tra le risaie vercellesi e le montagne valdostane. Un cammino a portata di weekend. Si scende dal treno e si comincia a camminare. Alberto Conte è l'autore ed è anche l'anima della Casa del Movimento Lento. È lui ad accompagnarci. Europa è il primo posto in cui io sono stato nel Biellese. Io sono un milanese che fino a pochi anni fa, diciamo una decina d'anni fa, non aveva la minima idea di cosa fosse il Biellese, a malapena sapevo dove fosse Vienna. Un giorno per lavoro ho dovuto raggiungere il Santuario d'Europa, è stato amore a prima vista, questo posto mi ha affascinato, c'è un'energia molto particolare, è un santuario imponente, incastonato in una natura meravigliosa, quindi anche se non sono una persona credente, comunque ho sentito una fortissima energia in questo posto e mi è piaciuto subito. Devo dire che le parole che hai scelto rispecchiano anche quella che è stata la mia sensazione, perché il Santuario di Europa è un santuario molto austero, però riesce proprio a trasmetterti questa forza, mi viene da dire, più che energia, proprio una forza che ti accoglie quando arrivi, quando sali, no, verso il santuario. In effetti l'arrivo, in particolare al santuario, quando si arriva e anche l'arrivo del Cammino di Europa, la sensazione che si ha all'arrivo è quella proprio di un abbraccio. Le ali dell'immenso santuario si aprono come ad avvolgerti, e poi c'è una sensazione proprio anche di arrivo molto graduale. Bisogna salire prima lungo il sentiero e poi lungo le scalinate del santuario per arrivare alla Basilica Antica, dove è custodita la statua della Madonna Nera, che è un po' il fulcro di tutta la venerazione che gira attorno al santuario. E allora chiudiamo proprio l'argomento anche sulla Madonna Nera, visto che questo è un anno molto particolare per Europa e per la Madonna Nera. Sì, allora il quinto centenario dell'incoronazione della Vergine. 500 anni fa, per la prima volta, i biellesi decisero di rendere omaggio alla Vergine con una cerimonia di incoronazione che ebbe la particolarità di essere una manifestazione popolare voluta dal popolo e che da allora si ripete ogni 100 anni. Quest'anno, 2020, è un anno molto particolare appunto perché c'è questo centenario. Immaginate, l'ultima volta, 100 anni fa, pare che milioni di pellegrini abbiano fatto il loro pellegrinaggio a Europa proprio per celebrare questa sorta di giubileo del santuario. Il santuario ci dà l'occasione per parlare di alcuni percorsi. Uno, diciamo così, più fattibile, Alberto, gli altri due forse più impegnativi. Io partirei da quello più accessibile. Sì, quello più accessibile deriva da tanti miei cammini fatti nel Biellese. Io appunto, dopo la mia prima visita, ho lavorato tanto nel Biellese, mi sono innamorato di questo territorio. Ho deciso di trasferirmi, quindi da Milano, da alcuni anni mi sono trasferito in questo piccolo paesino che si chiama Roppolo, che sta in provincia di Biella, appunto nella zona del lago di Viverone, dove ho aperto la Casa del Movimento Lento, che è il rifugio per pellegrini e viaggiatori lenti che gestisco insieme a mia moglie. Questo posto sta sulla via Francigena, quindi è un posto tappa dei pellegrini lungo la via Francigena, quindi di pellegrini di lunghissima percorrenza. A volte ospitiamo persone che arrivano da Canterbury, immaginate, che sono magari in viaggio da 2 mesi. Però appunto tante persone non hanno mesi di tempo per fare questi percorsi a lunga percorrenza. Allora ho iniziato a immaginare un tracciato breve che fosse alla portata di molti, anche di chi non aveva mai camminato, e che poteva essere facilmente raggiungibile, ma che avesse una sua compiutezza, ma un inizio e una fine. E quindi ho disegnato questo percorso che in 4 brevi tappe, da 15 km circa, tappe abbastanza semplici, che inizia a Santià, in una stazione ferroviaria. Io sono molto attento all'intermodalità, è molto importante in questo periodo in cui si fa tanto parlare, no, di sostenibilità, ecco, i viaggi devono essere sempre più sostenibile, questo è un viaggio sostenibile per eccellenza. Si parte da Milano da Torino con un treno regionale che costa pochi euro, si scende alla stazione di Santià, alla stazione si trova il primo segnavia e in 4 giornate di cammino si arriva al Santuario di Europa, facendo tappa a Roppolo, nella nostra casa, a Torrazzo o a Sala Biellese, dove ci sono ospitalità a basso costo, al Santuario di Graglia, che è un altro posto meraviglioso con un panorama formidabile su tutta la pianura padana, e infine si arriva a Europa. Quindi 4 giorni in cui comunque ci sono tutte le liturgie anche di un cammino. Il primo giorno si ritira la credenziale, il passaporto del pellegrino, viene messo il primo timbro all'ostello di Santiago e poi giorno per giorno il viandante o pellegrino può avere i timbri sulla credenziale e l'ultimo giorno, quando arriva al Santuario di Europa, gli viene consegnato un attestato che è la dimostrazione concreta, no, del suo viaggio e che può appendersi in camera e che rimane come bei ricordi. Ci fermiamo solo per qualche istante, non andate via. Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva, solo in podcast. Vai su radio24.it, nella sezione Scelti per voi, per scoprire ogni settimana quali saranno i lavori di domani, come orientarsi nella scelta della scuola per i figli, ascoltare come sono nati i più grandi successi della musica italiana, conoscere nuovi luoghi attraverso le storie di chi li ha vissuti. Radio24.it, un nuovo modo di vivere la radio, con le voci, le interviste e le storie più interessanti da ascoltare, da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Radio 24, la passione si sente anche in podcast. Globetrotter 24. Siamo nel Biellese, il nostro punto di partenza, il Santuario di Europa. Alberto Conte ci sta raccontando alcuni dei percorsi possibili in queste terre. Dicevamo, Alberto, che di cammini qui ce ne sono anche altri due, che sono però un po' più impegnativi, quindi è giusto sottolineare anche il fatto che bisogna essere un po' più esperti. Sì, assolutamente. Mentre il cammino cosiddetto della Serra Morenica, che è quello che ho appena descritto, è un cammino veramente alla portata di chiunque goda di buona salute, quindi uno dei grandissimi piaceri che noi abbiamo avendo come obiettivo, proprio come associazione Movimento Lento, quello della divulgazione del cammino, soprattutto verso le persone che non hanno mai camminato. E come immaginate, circa la metà delle persone che passano da noi per il pernottamento facendo il Cammino d'Europa sono al loro primo giorno di cammino nella vita, per cui per noi è una grandissima emozione, un grandissimo piacere poterle ospitare. Dopo quattro giorni di cammino, chi si è in forma può continuare in due direzioni: o va verso la Valle d'Aosta percorrendo quello che è il più classico dei pellegrinaggi verso Europa, che è quello di Fontainebleau, questa valle laterale della Valle d'Aosta. Tutta la comunità si raduna in questo piccolo paesino di Fontainebleau e si mette in cammino durante la notte, e in una notte di cammino raggiunge il Santuario di Europa superando un colle di 2000 metri. Quindi nella guida che ho descritto anche questo pellegrinaggio, l'ho separato in due tappe. Si fa tappa al meraviglioso rifugio della Varma, che è uno dei rifugi più recenti e tecnologicamente avanzati che siano stati costruiti proprio nell'ultimo decennio, e poi appunto si scende verso Europa. Quindi qua si parla invece di un classico trek di montagna, no? Potrebbe essere come ambientazione abbastanza simile ad esempio alla grande traversata delle Alpi, in cui si percorre un tratto. Ancora più impegnativo è l'altro percorso, che va invece verso la Valsesia. Quindi da Europa si può proseguire, e superando due colli veramente abbastanza impegnativi si raggiunge un piccolo paesino valsesiano che si chiama Rassa. Questo percorso può essere fatto in due, o meglio ancora in tre giorni, perché è veramente un trek per persone, insomma, che già sono abbastanza esperte. Quindi praticamente sono tre percorsi a tre livelli di esperienza diversi, anche se anche il cammino della Serra è gradevolissimo e molto bello anche per chi ha già esperienza di cammino. Viaggiare è conoscere, l'architettura è uno dei tanti linguaggi della conoscenza, un linguaggio che si fonde con l'ambiente. Alessandro Cecchini è fondatore di IAC, Accademia di Architetti con sede a Bologna, un'accademia che affianca alla formazione anche i concorsi. Sarà lui a spiegarci meglio che cos'è IAC e i concorsi aperti in questo momento, uno in Italia, in Basilicata per la precisione, e uno che invece ha a che fare con isole molto molto lontane. IAC è una società che nasce nel 2013 con il fine di promuovere una cultura della ricerca in ambito dell'architettura, facendola attraverso i concorsi di idee. Negli anni di lavoro abbiamo avuto modo di collaborare con realtà come National Geographic, Lamborghini, Technogym, Unipol e Agenzia del Demanio, quindi con aziende in realtà sempre caratterizzate da un importante posizionamento, e soprattutto raccogliendo ogni volta una grandissima adesione da parte dei progettisti. Mediamente 3-4 mila progettisti da più di 100 nazioni diverse prendono parte ai nostri concorsi. Questo fra l'altro ci ha permesso di consolidare un network importante di firme dell'architettura che di volta in volta noi invitavamo in qualità di giurati delle nostre iniziative, che sostanzialmente ormai da 2 anni sono diventate anche un network di docenti per dei progetti formativi che noi finalizziamo per cercare di inserire una serie di giovani meritevoli all'interno di quello che è il mercato del lavoro dell'architettura, per cui tutti quelli che erano i nostri giurati, e parliamo di grandi firme, da Zadì, da Norman Foster, sono poi entrati in qualità di docenti nei nostri percorsi formativi con l'obiettivo appunto di presentare una serie di giovani, ovviamente, come potrei dire, di talento, a quelle che sono le realtà più importanti dell'architettura nello scenario contemporaneo. Senti Alessandro, secondo me, poi non so qual è la tua idea, visto che l'architetto sei tu, l'architettura è un linguaggio, è un modo per conoscere. Noi parliamo di viaggi, parliamo di mete, non in senso strettamente turistico, ma proprio come modalità per andare a capire un po' come è fatto il mondo. E voi, accanto all'offerta formativa, avete anche appunto questa modalità dei concorsi, e in questo momento ce ne sono due che hanno proprio a che fare con dei luoghi. Parliamo prima di quello che riguarda l'Italia? Va benissimo. Beh, allora, effettivamente quello che dicevi è vero, nel senso che anche proprio sul piano personale è sempre meraviglioso organizzare concorsi, perché mi permette di conoscere dei contesti spettacolari che viceversa non avrei avuto l'opportunità di approfondire. Stiamo lavorando in collaborazione con Craco Ricerca, e Craco Ricerca è una società che gestisce il parco archeologico dell'omonima cittadina di Craco. Craco penso sia, e si può dire apertamente, il borgo fantasma più bello del mondo. È una città remota che si trova appunto in Basilicata, che ha subito tutta una serie di dissesti idrogeologici nel tempo che hanno portato gran parte del paese a franare e a rimanere abbandonato, per cui c'è effettivamente un contesto paesaggistico meraviglioso, perché poggia su un promontorio che guarda attorno a quelli che sono i Calanchi, anche lì poco distante si trova Matera, quindi il luogo è obiettivamente uno spettacolo, ancor più spettacolare chiaramente reso da questo borgo di matrice prettamente medievale, completamente abbandonato, che è appunto visitabile, ogni anno diventa meta di osservazione, di turismo e di visita da parte di persone da tutto il mondo. L'idea è chiaramente di utilizzare, di incanalare al meglio questo flusso di visite, realizzando una serie di micro interventi architettonici che preservino la qualità del luogo, ma per rendere appunto fruibile questo spazio. Quindi un pochino l'idea dei rifugi montani, realizzare una serie di rifugi, di shelter all'interno del borgo medievale abbandonato, per permettere alle persone di fare questa esperienza, direi, molto romantica e molto affascinante, di dormire fra le rovine di una città fantasma. Invece adesso ci spostiamo un po' più lontano, e l'altro concorso ha a che fare invece, anche qui purtroppo, con un contesto che è stato deteriorato da quella che è la nostra scempiaggine, direi, però appunto è molto più lontano. Sicuramente sì, questo diciamo è un'iniziativa molto affascinante. Ero venuto a sapere circa un anno fa dell'esistenza di questa Repubblica di Kiribati, sono un gruppetto di una trentina di atolli dispersi proprio nel cuore del Pacifico. Per arrivarci dall'aeroporto più vicino ci vogliono una ventina di ore, quindi per dire quanto effettivamente è remoto questo luogo e quanto è isolato. Di fatto queste isole, che hanno una popolazione indicativa di 100.000 abitanti, 100.000 nativi, che sono un po' gli eredi di quelli che erano i navigatori polinesiani che esplorarono il Pacifico chiaramente diversi secoli fa, queste persone vivono su queste isole che purtroppo hanno un livello medio d'altezza sul mare che è bassissimo, parliamo di circa un metro, per cui stanno subendo molto quello che è l'effetto dell'innalzamento degli oceani, per cui sono continuamente sommersi da quelle che sono le maree che il Pacifico impone, che spazzano via quella che è la falda d'acqua potabile, desertificando sempre di più queste isole, inquinando le falde e quindi chiaramente creando dei problemi reali. Il tema è che i nativi da queste isole non se ne vogliono andare, cioè questo è molto affascinante. A Kiribati non esistono due parole diverse per definire terra e per definire popolo, quindi sono un popolo che effettivamente si riconosce molto in maniera molto radicata nella propria terra e non la vuole abbandonare. E quindi stiamo cercando di sviluppare con il governo locale una serie di soluzioni architettoniche per realizzare delle abitazioni galleggianti che permettano ai nativi che vogliono rimanere sulla loro isola di viverla ancora in un contesto di cambiamento climatico che chiaramente vada a sottigliare quelle che sono le possibilità di vita su queste isole. Alessandro, immagino che tutti i dettagli per chi vuole partecipare siano disponibili sul sito. Io però ti chiedo velocemente la scadenza, perché questo mi sembra importante. Certo, il concorso su Kiribati scadrà adesso in gennaio, mentre invece quello su Krako in febbraio. Tutti gli architetti che chiaramente hanno piacere di presentare le loro idee, da una parte per rivivere un borgo fantasma, dall'altra per dare un supporto a quelli che sono i nativi di quest'isola, chiaramente hanno ancora l'opportunità di farlo per 1 o 2 mesi. E per questa domenica ci fermiamo qui. Un ringraziamento in regia ad Andrea Roccabella. Se volete scriverci, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.